difficile. Lo so. Però è mia tua. Musica allo stato puro. Ti ripigli di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino, è il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che pace, che spera, le voce più lenta, violenta, sincera. Musica più lenta che mace, che spera, veloce, più lenta, violenta, sincera. Chi viaggia poco resterà piccino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Signore e signori, avrei un paio di cose da dirvi. Ci siete tutti? Sì, sì. Siamo pronti? Possiamo partire? Bene, la prima parte del cammino di oggi attraverserà alcuni sentieri un po' anzianotti. Ascolteremo alcuni brani che hanno inciso il passato donandoci un meraviglioso futuro. Eh sì, perché è attraverso il passato che nasce il futuro. O cioè che è il futuro che attraversando il passato capisce come deve andare e dove deve andare. Aiuto. E soprattutto cosa deve fare. Hai capito? Oh, Ogni periodo musicale è meraviglioso. Nasce, emoziona, unisce, fa discutere, crea nuovi mondi. Poi diventa passato, ma è proprio attraverso quel passato che nasce il futuro. Oh, life is bigger. It's bigger. Distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Quotidiana leggermente anziana. Let the fire get higher. Stiamo camminando attraverso alcuni sentieri percorsi dal futuro. Ne sono sicuro. Pesca. Dove passa il futuro? Se mangi una pesca e poi levi la parola pesca, quello che rimane è una scoperta e quello che rimane è meraviglia. E così, se ti do un bacio e poi levo la parola bacio, quello che rimane è meraviglia, come prendere il sole su una spiaggia bianca. Quante parole, bisogna stare attenti alle parole, che possono essere pericolose, che possono chiudere il cervello, portarti via laddove fa freddo, anche se oggi giugno splende il sole, è una rivelazione di colore. Questa sera che mi porta via lontano, dove i sensi sono immensi, ricchi, splendenti, lucenti. Quanta tenerezza scorre nella vita, la salvezza. Apro le mie mani con dolcezza e lascio che si vadi ogni stella. Se ne vada via ogni dolore, possa diventare gioia. Così ora guardo i tuoi occhi, ma proprio dentro in fondo ai tuoi occhi, quell'improvviso levo la parola occhi e sono in un nuovo spazio immenso. E ora prova solo un momento a far saltare tutte le parole, sarà un'esplosione come il sole, come trovare la luce e la purezza. E così senti, bisogna riscoprire tutti i sensi. Ho il fatto di tattacchio e di stendito per inventare un mondo più bello, pieno di magie e di scintille e di intuizione mille scoperte, perché le parole sono un trucco. E questa sera che mi porta via lontano, dove i sensi sono immensi, ricchi, splendenti, lucenti. Quanta tenerezza scorre nella vita, la salvezza. Apro le mie mani con dolcezza e lascio che si posi ogni stella. Se ne vada via ogni dolore, possa diventare gioia e amore. Se ne vada via ogni tristezza, perché questa sera c'è una festa. prossima. Qualcosa di buono. Mi sembra buono.

ginnastica mentale. Da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Vai gara da sabato 6 maggio 2006 dalle ore 2:02 Gigi D'Agostino alla discoteca Le Sphinx, La Voivre, località Charles, Francia. L'inventore di un nuovo mondo, Gigi D'Agostino. Agosto. Dai. Arriva, arriva! Gigi D'Agostino! Accendo la radio su M2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accendo la radio su M2O. Gigi D'Agostino. La sua musica prende vita. Accendo la radio su M2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accendo la radio su M2O. La sua musica prende vita. Basta niente per creare un prepotente. Tanti soldi e successo tra la gente. E la paura di non possedere più niente. Questo basta infettare la sua mente. Ipnotico elettronico melodico.

il cammino te lo suona Gigi D'Agostino. Celestino Disco Bar, momento aperitivo. Pubblicità. Ascolta ciò che vuoi. tuo salotto alle 18 famo il botto. A scegliere il sito www.gigitag.com. E vota la canzonetta. Mo vi presento una bella canzone. Gigi Slob, Lento Violento Man. Things live. sigla. È finita. Se n'è andata sta puntata, non mi faccio sta cantata. Gigi sotto il mio tassista, sono Gigi folclorista. Non ti devi rattrista, sto cammino resta qua. Ma se vuoi che io ritorni, tu sei bravo tutti i giorni. Ogni giorno io t'aspetto, sono Gigi, l'ho già detto. Ma la sigla va a sfumare perché devo respirare.